Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, finalmente vi aspettavo, sono le 11.08, abbiamo in regia la parte tecnica sempre Peter Bescapè, Laura Vanossi in redazione, come sempre i titoli del nostro sommario. Decidi con la pancia o con la testa, parliamone insieme. Menopausa precoce, forse c'entrano i geni. Se il caldo ti mette KO, prova con lo shiatsu. Ne avete già preso una in questo momento, quasi senza accorgervene. Non sarà definitiva, certo, potete cambiare idea mille volte, poi ricambiarla, ma intanto anche senza volerlo l'avete preso. Sono le 11.08, state ascoltando Radio 24 e siete in nostra compagnia. Ottima decisione, direi, ma a volte decidere non è facile. A volte facciamo delle scelte anche non efficaci. Oggi proprio riflettiamo a voce alta su questo. Siete tipi decisi, tosti, sicuri, decidete subito, non avete dubbi, oppure scegliere per voi è una fatica, tentennate, aspettate, ci ritornate, insomma prendete voi decisioni con la testa d'impulso oppure con la pancia, quindi siete razionali o emotivi. Intanto che voi ci pensate, vi suggerisco subito di fare il nostro numero verde, questo vi può, decidetevi insomma, 800 24 00 24. Io sono molto felice perché finalmente ho qua in carne e ossa il professor Perna. Buongiorno professore, sono quasi emozionata. Beh, sono emozionato io anche perché noi ci conosciamo praticamente da amici e da tanto tempo, però non ci siamo mai visti. Mai. Allora, la vista è piacevole, devo dire. Bene, grazie, lei è un cavaliere. Direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht, ma in linea con noi abbiamo anche il professor Paolo Cavedini. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori anche da parte mia. Per il momento rimane solo una voce, ma ci aiuterà il professor Cavedini, è professore del Master di Neuropsicologia di Disturbi Emotivi e Comportamentali dell'Università LUMSA di Roma. Allora, professor Perna, pancia o testa? È una bella questione, perché noi tutti pensiamo di decidere con la testa. In realtà, quello che hanno dimostrato le neuroscienze è che si decide con la pancia. La pancia è il primo momento in cui abbiamo delle informazioni importanti. Di solito quando... Sì, ci siamo. Perfetto. Aspetti, ok. Ok, di solito quando pensiamo troppo rischiamo di sbagliare molto. Questo perché nella pancia, cioè nelle nostre emozioni, sono raccolte tutte le informazioni della nostra vita. Quindi in qualche maniera diventa un suggeritore con un bagaglio di esperienza molto molto forte. La ragione cosa fa? Analizza dei dati. E in questo caso analizza pochi dati, perché la parte razionale non ha una potenza di calcolo straordinaria come invece quella razionale. Quindi dovete dirmi voi ascoltatori, scegliete di pancia o di testa? E soprattutto, quando avete scelto di testa, dopo che la pancia vi diceva una cosa contraria, quante volte avete avuto ragione? 800 24 00 24. D'altronde nella pancia c'è il nostro secondo cervello. Professor Cavedini. Sì, eccoci qua. Il nostro cervello è una struttura straordinaria, ma anche molto complessa. Decide un'azione molto faticosa. E quando prendiamo delle decisioni anche le più semplici, diverse sostanze, diversi circuiti cerebrali si attivano e collaborano tra loro per garantire il sostegno migliore alle nostre decisioni. La cosa sorprendente è che questo faticoso lavoro avviene anche se noi non ce ne accorgiamo e anche quando prendiamo delle decisioni senza rendercene conto. Pensate che si stima che il cervello prenda decisioni addirittura in anticipo rispetto a noi, quasi 10 secondi prima che l'individuo ne sia cosciente. Magnifico. O c'è da aver paura? Ma dipende poi se la decisione è efficace. Beh sì, certo, dipende un po' dall'esito, ma l'esito dipende anche molto da quanto noi siamo in grado di pilotare le nostre decisioni verso l'esito più opportuno e più efficace per noi. Professor Cavedini, anche lei ha delle domande da fare ai nostri ascoltatori perché si decidano a chiamare il nostro numero verde e a intervenire raccontandoci quali decisioni costano loro più fatiche, soprattutto se decidono di pancia o di testa. Magari se ancora non hanno capito quale delle due motori utilizzano, di scoprirlo insieme a noi. Che cosa chiediamo? Assolutamente sì. Beh, innanzitutto chiediamoci se possiamo migliorare le nostre decisioni, e se possiamo far fronte a quelle trappole mentali che ci impediscono di decidere in libertà. Chiediamoci ad esempio se siamo persone che amano il rischio o se invece sono molto conservative e se questa modalità di procedere la mettiamo in atto nelle scelte di tutti i giorni, da quelle più banali fino a quelle più importanti. Quindi stimolerei la gente a riflettere un pochino su come possiamo migliorare la nostra capacità decisionale. Professor Perna, lei decide bene, come si sente lei? Ma io ho imparato scaviamo un po' nella sua ho imparato a fidarmi molto della pancia. Anche perché la pancia quasi sempre non sbaglia. E in questo senso c'è un ragionamento importante da fare. Voi donne avete un vantaggio straordinario. Beh. Perché l'intelligenza emotiva, e quindi la pancia delle donne, comunica molto di più rispetto a quello che capita agli uomini. Facciamo un esempio molto banale. Se un uomo dice una bugia, la donna la becca subito. Quindi l'intuizione, la capacità di cogliere tutta una serie di aspetti emotivi è molto più forte. Viceversa, noi ci troviamo più impreparati. Quindi è molto vero che accanto a un grande uomo c'è una grande donna. Me l'ha tolto di bocca. È talmente vero che paradossalmente la donna, nonostante apparentemente abbia un ruolo di potere minore, in realtà ce l'ha molto maggiore. Certo. Perché ha quegli occhi che l'uomo non ha, e sono gli occhi della pancia. 800 24 0024 se state per prendere una decisione che vi costa fatica, siete lì un passetto avanti, un passetto indietro, io direi che possiamo approfittare dei nostri esperti per prendere decisioni più efficaci. Questo è un messaggio di ottimismo che voglio lanciare, che guiderà un po' la nostra trasmissione. I messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso parliamo di menopausa. Questo è un evento su cui noi donne non abbiamo alcun margine di scelta. Arriva quando arriva, ma che spesso, proprio per i cambiamenti che fisiologicamente porta con sé, influenza le nostre decisioni. Di questo avremo modo di parlare col professor Cavedini e il professor Perna. Adesso invece voglio parlarvi di uno studio che analizza le possibili cause della menopausa precoce, e in ballo potrebbero esserci anche i geni. Ne parliamo con il professor Luca Persani, endocrinologo del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Milano e dell'Istituto Auxologico Italiano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, voi state mettendo a punto un test che ha proprio come obiettivo quello di individuare le donne che sono predisposte alla menopausa precoce. Questo è un test utile, soprattutto oggi, quando si diventa mamme più tardi rispetto al passato. Sì, perché questo problema sta diventando sempre di maggiore importanza, proprio perché le donne tendono a concepire più avanti con l'età per diversi motivi lavorativi, di emancipazione, eccetera. E poi c'è anche il rischio conseguente al precoce ipoestrogenismo, che se non trattato adeguatamente può portare a delle notevoli conseguenze a livello di diversi tessuti, come un invecchiamento precoce dell'osso, una predisposizione ad avere malattie neurodegenerative o cardiovascolari. Per cui l'idea è quello di non riconoscere... Non ci spaventi troppo però, professore. È quello di riconoscere precocemente queste donne candidate ad andare in menopausa prima dei 40 anni, che è un evento patologico, e questo lo intendiamo farlo cercando di capire meglio quali sono le cause che geneticamente determinano questa predisposizione ad andare in menopausa anticipata. E ci state riuscendo, professore? Ma fino adesso il lavoro che abbiamo fatto all'interno del network italiano dei difetti ovarici, che vede insieme endocrinologi, clinici, ginecologi e genetisti, certo, siamo riusciti a individuare, a poter fornire un'informazione alle donne in circa il 20%-25% dei casi, quindi una donna su 4, una donna su 5. Speriamo in futuro, presto, di riuscire a dare una risposta nella maggioranza dei casi, ovviamente. Certo. E questo grazie agli studi che stiamo facendo nei vari laboratori che collaborano a questo network. Lei ha detto in futuro e ha aggiunto presto, quindi ci auguriamo che sia davvero presto, ma intanto ce lo auguriamo anche noi. Ecco, ma professor Persani, nell'attesa possiamo delineare un po' l'identikit della donna che è più a rischio di menopausa precoce? Certo, io ho parlato di influenza genetica perché da tempo si sa che la menopausa fisiologica è determinata da fattori ereditari, cioè la donna tende ad andare in menopausa a un'età simile a quella della mamma, quella della mamma o della zia. Al di là della genetica ci sono anche associazioni con malattie autoimmuni, quindi se una donna ha una tiroidite o una adrenalite, cioè una malattia autoimmune che colpisce il suo rene, ha anche un maggiore rischio di avere menopausa anticipata. Questo però si ritiene che sia un problema che colpisce circa il 10% delle donne, e poi soprattutto le donne che vanno incontro a, a chemioterapia, certo, antitumorale, e certo, questo è chirurgica. È già noto. Professor Persani, che le devo dire? Si metta al lavoro, mi raccomando, e buon lavoro, aspettiamo i risultati. Grazie. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Pronto soccorso. Quando si prende una decisione, in realtà si comincia a scivolare in una forte corrente che ti porta verso un luogo mai neppure sognato al momento di decidere. Paolo Coelho. Decidere un comportamento che ci viene naturale o che invece ci ingabbia? Se volete parlarne con noi, 800 24 0024. Professor Cavedini, tante volte facciamo scegliere agli altri o aspettiamo, insomma, che la vita scelga per noi. Questa potrebbe essere una terza possibilità. Abbiamo detto, scegli di testa o di pancia, oppure fai scegliere ad un altro, alla vita, all'amico, al tuo partner, ai colleghi. Beh sì, talvolta ci viene anche più facile demandare agli altri le nostre decisioni, non sempre questa però è la cosa giusta, perché non ci assumiamo le nostre responsabilità, quindi ci accodiamo alle decisioni degli altri, che non spesso coincidono con i nostri veri obiettivi, e questo è l'errore più grosso che si possa commettere, perché avere delle idee chiare su dove si vuole andare, su quindi qual è il vantaggio di una decisione, direi è la cosa principale, l'essenza di ogni buona scelta. Abbiamo Stefano che ci chiama dalla provincia di Brescia. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Pancia o testa, Stefano? Io volevo fare una domanda. Oh, va bene. Che, dare un mio parere. Visto che chi non ha mai dubbi a decidere, cos'è che gli dà questa forza? Ma lei si ritrova in questa in questo tipo? Esattamente. Sì. Ma è pericoloso anche non avere, anche avere, come si dice, questo tipo di sicurezza, di certo. Quindi professor Perna, Stefano mette sul tavolo un buon argomento di discussione. Bravo Stefano, noi non ci avevamo pensato, o forse lei sì, professore? Ma pensato direi di sì, perché ci sono persone che hanno un livello di capacità decisionale molto elevata, e quindi sono persone soprattutto che hanno una grandissima esperienza. La maggior parte di quelli che decidono sempre senza avere un dubbio, in realtà talvolta possono trovarsi nei pasticci. Questo perché il dubbio, l'ansia, la paura in qualche maniera, sono dei meccanismi di difesa che ci proteggono dagli errori. Quindi non avere dubbi vuol dire rischiare di fare molti più errori. D'altro canto, l'avere tantissimi dubbi vuol dire anche non decidere, quindi come sempre ci vuole il giusto equilibrio. Ci sono persone però, pensiamo ai grandi, non so, io penso a Bill Gates o altri personaggi importanti, non credo che prenderanno decisioni sulla base di pigne di dati, loro guardano i dati e poi decidono di stomaco e quasi sempre ci azzeccano, quindi tutti voi dovete avere grande pazienza di acquistare grandi esperienze, sbagliare molto, esattamente per arrivare a un momento in cui potete prendere rapidamente le decisioni. Però decidere senza dubbi è pericoloso. Quindi Stefano deve stare un po' a corto. Un po' a corto, esatto. 824 0024. Tra l'altro ieri ho rivisto, qualcosa è cambiato. Lui aveva un dubbio, professor Cavedini. Beh sì, film splendido, l'ho visto un pezzettino anch'io. Eravamo ieri tutti insieme a vedere lo stesso assolutamente film. Assolutamente sì, credo che sia un film memorabile. Poi lui è magnifico. Lui è veramente molto bravo. Lì però entriamo in un'area un pochino diversa, perché Jack Nicholson aveva una patologia specifica, un disturbo ossessivo compulsivo, questa è la definizione della malattia dell'attore di questo film, che spesso viene identificato come un problema di incapacità decisionale, diciamo però portato a degli estremi di tipo patologico, però è tante volte il suo comportamento che abbiamo osservato durante il film, era l'espressione proprio di una vera e propria indecisione patologica, un dubbio patologico che è il vero nucleo, il vero motore di questo tipo di patologia e che complica la vita a moltissime persone. Allora, intanto i nostri... Professor Perna, già che la vedo che si muove e vuole intervenire. Se volevo un commento anche in questo. Allora, quello che capita in questo disturbo è che una persona perde il pilota automatico fisico, tant'è che si dice che il cosiddetto marcatore somatico, che poi è l'intuizione che ci porta alle decisioni, funziona male. E quindi cosa succede? Che lui è costretto a controllare e valutare tutti gli elementi continuamente, ripetute migliaia di volte, incapace di decidere. Quindi è una prova dove la pancia non funziona, no? Quindi è il corpo che è incapace di darti quelle che sono le opinioni giuste. È importante ricordarsi che questa è una patologia vera, va curata e non va pensato che uno è semplicemente un indeciso. Se io ripeto 1000 volte la chiusura di una porta piuttosto che 2000 volte controllo che le mani siano pulite, non è solo indecisione, è qualcosa di più. Allora, intanto molti ascoltatori, tra cui Elisa da Treviso, Marco, Giovanni, alcuni sono anonimi, ci scrivono per come si impara a scegliere di pancia, perché altri ad esempio scrivono: sono molto razionale, non decido mai di pancia. Dato che professor Perna, lei ha detto che è la pancia che ci fa decidere bene, questo ve lo spiegheremo. Ma ho Enrico che ci aspetta da Palermo. Buongiorno Enrico, benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Lei ha preso già un'ottima decisione, stare con noi e chiamarci. Ah, ho capito, già. Già allora questo è promosso, va bene. No, niente, io volevo così intervenire sulla discussione, nel senso che a me a volte capita di decidere di pancia immediatamente, se c'è qualcosa la decido e subito cerco di portare avanti il discorso. Solo che a volte mi capita invece di non decidere e di crearmi una situazione di stress, di cose, perché diciamo quella decisione non l'ho fatta, però creandomi poi sopra delle cose che poi mi rendo conto che al momento opportuno poi la cosa la devo decidere, francamente è stato tutto uno stress che mi sono creato da solo senza portarmi poi a nessun fatto positivo. Ecco, a volte decido di pancia e decido e ho preso una soluzione, a volte invece mi porto dietro un discorso sopra, creandoci poi tanta di quel movimento mentale, stando anche male, e poi portarmi a una decisione che secondo me la potevo anche fare prima, perché in fin dei conti non cambiava le cose. Allora, professor Cavedini, cosa le suggerisce? Direi che il nostro amico cerca di mettere alla verifica della razionalità le sue sensazioni più emotive interne, no? Quindi quando la pancia poi viene controllata dal cervello, lì subentrano dei guai. Quindi probabilmente il nostro amico deve imparare a, non soltanto ad ascoltarla, ma ad accompagnare le scelte di pancia poi con delle azioni operative nella vita di tutti i giorni. Certo. Se pretendo invece di verificare razionalmente che tutto fili liscio secondo quello che ho in testa io, allora queste diventano poi decisioni che in alcune situazioni si possono complicarci molto la vita. Quindi lasciarsi un po' andare, prendersi il tempo che serve e poi alla fine seguire il nostro istinto. Questo mi piace. E quindi si sbaglia anche un pochino a cuor leggero. Uno dice: ho scelto così, mi sentivo, poi ne pago le conseguenze. Tante volte le decisioni non sono efficaci. Professor Perna. È vero, direi che l'ingrediente chiave è la fiducia. Cioè, dobbiamo avere fiducia nel nostro corpo e nelle nostre sensazioni. Ricordiamoci che il corpo e le sensazioni nascono da millenni di sviluppo, no? Quindi non sono semplicemente la nostra memoria autobiografica, ma diventano una specie di cassetto reale di tutte le esperienze, non solo nostre, ma della nostra specie. E quindi molto forte. Certo. Per quello la pancia sbaglia molto di meno. Da giovani, ci scrive Alex, le scelte sono più istintive, più si invecchia più si diventa riflessivi e le scelte sono sempre più difficili. Se condividete 824 0024, professor Perna, non vedo che è un po' tentennante, si decida da che parte sta lei? Sto in mezzo, ovviamente. È comodo. In mezzo per un motivo, perché da giovani si prendono delle decisioni istintive, però senza avere l'esperienza, e quindi si rischia di sbagliare molto di più. Quando si è più grandi, tra virgolette, addirittura anziani, le esperienze, cioè le decisioni sono comunque di tipo istintivo, ma sono più, come dire, pacate, perché nascono da questa profonda esperienza. Quindi io sono convinto che la vera saggezza, cioè la vera abilità decisionale nella propria vita, nasce in età molto avanzata. Io ho conosciuto persone di 70-80 anni, fenomenali, che mi davano 1000 punti, perché avevano una brillantezza, una capacità, una serenità di decidere con l'istinto. Pasquale ci chiama da Teramo. Buongiorno Pasquale. Buongiorno a voi e grazie all'argomento. Io pongo un elemento di novità rispetto alla discussione che c'è stata finora. Bravo Pasquale. No, nel senso che ho verificato appunto che quando le decisioni vengono da pancia, io lo chiamo il sesto senso, in genere diciamo ci si becca. Ma soprattutto una cosa che a me impressiona, ma che sicuramente esperti mi spiegheranno, è il fatto che proprio mentre si genera il ragionamento, prima ancora di razionalizzare la cosa, già dentro di me c'è la sensazione di come, dove devo andare a parare e che cosa devo fare, insomma. Quindi c'è questa, man mano che si crea la, diciamo, la, l'evento, la, l'informazione, già nel mio interno c'è questo di pressione e di predecisione, diciamo. Professor Cavedini. Diciamo che forse è vero che le decisioni più importanti le prendiamo quasi senza accorgercene, no? Sì. Nel senso che iniziano a montare dentro di noi le sensazioni giuste, l'intuito, no? fa proprio la differenza, e man mano che poi abbiamo un riscontro che le nostre decisioni stanno andando nella direzione giusta, è un po' come se tutti a un certo punto i conti tornassero, no? E quindi si concretizza poi il risultato che vogliamo, ma quasi quasi non sappiamo nemmeno in che modo siamo arrivati a quel tipo di processo, no? Intanto però il nostro cervello lavora, il nostro cervello funziona, come dicevo, fatica anche per arrivare, sì, a quel punto. L'importante poi è che quando abbiamo preso quelle decisioni che in questo modo, gli obiettivi che ci avevamo prefissati siano raggiunti, insomma. C'è un confine sottilissimo. Passarlo o non passarlo è una questione di un attimo, di una decisione che si prende o non si prende. Della sua importanza ti rendi conto soltanto quando l'attimo è trascorso. Susanna Tamaro. Ritorniamo a parlare di scelte, di decisioni. A volte le evitiamo proprio perché non ci sentiamo pronti, non siamo nella condizione d'animo, nella condizione di pancia, dovrei dire, professor Perna, di prenderle. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Ci sono tantissimi sms di cui ve ne leggerò alcuni per chiedervi un consiglio, ma andrei nella provincia di Lecco, che ci aspetta Marina. Buongiorno. Ecco, io volevo parlare appunto della mia capacità innata, penso, di, ho sempre preso decisioni di pancia, direi, e sia nelle cose più futili che nelle cose importanti. Marina, posso chiederle? In questo mi sono ritrovata molto con mio marito, cioè in queste cose siamo molto simili. Per cui nelle decisioni importanti, situazioni importanti, familiari, magari anche se non nostre direttamente, piuttosto che nel comprare, nella decisione di prendere una casa, siamo sempre stati molto veloci nel prendere decisioni. Però la mia sensazione, quello che volevo dire in particolare, è di non prendere queste decisioni tanto di pancia, ma io ho l'impressione di riuscire a mettere sulla bilancia i pro e i contro, che poi ci sono sempre quando si deve prendere una decisione, e velocemente fare questa analisi, e poi una volta fatta questa analisi, cioè, sono convinta della decisione che devo prendere. Cioè, non è che non abbia dubbi o non, certo, sappia che ci sono dei contro, però a quel punto ho preso la mia decisione. E quindi uno è anche pronto ad affrontare le conseguenze. Non è tanto di prendere decisioni istintivamente, ma di, che comunque siano ragionate, pur prese in fretta. Ecco, professor Perna, Marina dice in fretta, c'è un tempo buono per prendere una decisione? Ma sono due considerazioni da fare importanti. Primo è che la pancia mette sulla bilancia i pro e i contro, lo fa in maniera ultra rapido e lo fa seguendo tutte le cose che abbiamo accumulato col tempo. Qual è la differenza rispetto a una decisione conscia, che è inconsapevole proprio perché è rapidissima, noi non ce ne accorgiamo, ma mettiamo sempre i pro e i contro. Quindi non vuol dire prendere decisioni avventate, ma vuol dire utilizzare il nostro corpo per bilanciare rapidissimamente tutto. È quasi un automatismo, è come quando, sì, guidiamo per strada. Noi non è che decidiamo che strada fare, se dobbiamo andare al lavoro possiamo fare a sovrapensiero, ma prendiamo piccole decisioni in ogni momento. Quindi questo è un po' il primo conto. Il tempo è una questione molto importante, perché il tempo è libertà. Che cosa vuol dire? Vuol dire che da quando ci arriva l'input a quando noi decidiamo, tanto più riusciamo a allargare questo tempo in maniera ragionevole, tanto più possiamo riflettere sulla situazione e scegliere. Questo ci porta a un terzo argomento importantissimo. Se noi usiamo sempre l'istinto, rischiamo di prendere sempre le stesse decisioni e quindi ripetere dei cliché che abbiamo sempre avuto. Quindi dobbiamo avere quel filo di visione anarchica che ci permette di avere nuove esperienze e quindi superare quelli che sono i nostri automatismi. Quindi decidere di pancia è fondamentale, ma sempre un occhio, avere una visione molto allargata, e talvolta qualche decisione completamente, tra virgolette, fuori di testa può aiutare a imparare. Perché è spiazzante. Sì, assolutamente. Sì. Ma allora, professor Cavedini, certo che il professor Perna ci fa fare anche questi exploit che non sono... Già adesso dobbiamo imparare a come si sceglie di pancia, come dar retta alla pancia. Adesso però ci spiazza dicendo dobbiamo essere anche un po' anarchici, cioè non dare sempre retta alla pancia, perché se no ripetiamo una sorta di cliché. Allora, professor Cavedini, lei ha una mano, un'idea da suggerirci per riuscire un po' a essere decisi nel modo giusto? Allora, diamo tre rapidi consigli, no? Sì. Per mettere un pochino a fuoco anche le cose che stiamo dicendo in questo interessantissimo incontro. La prima cosa, porsi degli obiettivi chiari quando dobbiamo scegliere. Cosa vogliamo ottenere da una decisione, cosa sì. è realmente un vantaggio e cosa non lo è. Sembra strano, ma spesso la mancanza di obiettivi chiari e precisi determina insicurezze e potenziali malintesi nelle nostre scelte. Sì. Seconda cosa, l'appena detto il professor Penna adesso, è lasciare tempo alla mente per decidere, anche se questo a volte è un problema, soprattutto in una società che predica la necessità che i problemi vengano risolti nel minor tempo possibile. Sapere aspettare e riflettere con tutta calma. A volte la decisione giusta, come abbiamo detto, spesso viene da sé. Sì. Ultimo consiglio rapidissimo è dobbiamo creare dei presupposti favorevoli alle nostre buone scelte, perché ogni decisione ha un importante substrato emotivo che le condiziona. Quindi quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti, facciamo attenzione di farlo anche nell'ambiente migliore e nel momento giusto, ed impariamo a lasciarci un po' andare. Andiamo a Tortona, ci chiama Angela. Angela, buongiorno, 824 0024. Angela. Buongiorno. Buongiorno. Ma allora... no, scusi Angela, sì. Rido perché Marco da Siena ci scrive, ma gli indecisi non chiamano in quanto tali? Allora, cerchiamo indecisi, cerchiamo i sortentenna. Angela, veniamo a lei. Allora, niente, come diceva la signorina, io tramite la vostra trasmissione che sento sempre, praticamente siete un'angoscia ormai per me. Spero no, un'angoscia spero di no. No, è positiva, nel senso che sentendo un po' per informazioni sulla salute, quelle cose lì, una trasmissione sull'infarto, avevo sentito delle nozioni che era consigliabile fare in caso di... Allora c'era un cardiologo che diceva di l'aspirina era consigliabile darla se uno sta male, quelle cose. Mio marito aveva tutte le cose che i medici dicevano di essere portatori di infarto, cioè sì. praticamente, ecco. E io pensando a mio marito ho detto no, è buono a sapersi, però poi dopo ho ripensato subito, dico, no, meglio non mettermi nelle grane, metti che sbaglio, confondo i sintomi, non vorrei poi fare un guaio peggio di quella... E insomma ho deciso di non far niente. Quando poi purtroppo l'evento si è verificato, io mi sono trovata a prendere l'aspirina e darla a mio marito. Dopodiché l'ho portato in ospedale e i medici dicono che gli ho salvato la vita. Vede. Mi sembra un po' esagerata, voglio dire. Però, però io dico, perché sì. ho deciso una cosa che prima avevo deciso? Che cosa ho deciso, col cervello o con la pancia? Bella domanda, Angela. Intanto lei ha deciso di sentire essere benessere, questa è già una buona decisione. A parte questo, professor Perna, tante volte facciamo proprio tutto il contrario, diciamo no, non lo farò, e invece al momento lo facciamo. Beh, questo perché il no, non lo farò è razionale e la decisione la facciamo invece viene di pancia. L'ascoltatrice dice una cosa molto importante che torna a una domanda un po' di tutti. Come facciamo a imparare a scegliere di pancia? Allora, primo bisogna avere informazioni e esperienze. Quindi per esempio una trasmissione che dà informazioni giuste aumenta la nostra capacità di decidere, perché ci permette di avere più informazioni corrette. La seconda cosa è avere il coraggio di sbagliare, perché ricordiamoci che uno non va avanti, non impara a decidere se non sbaglia, e per sbagliare dobbiamo agire. Sì. Quindi più che pensare, è molto importante oggi iniziare ad agire, accettando il rischio dello sbaglio, in modo che col tempo noi acquistiamo quell'esperienza che ci permette poi di ridurre al minimo gli sbagli. Allora, professor Cavedini, avrei da da chiederle un aiuto per un ascoltatore che ci scrive che deve essere il perenne indeciso, dice che ha perso treni, un sacco di appuntamenti, proprio perché continuava ad andare a vedere se il gas fosse spento, alla luce, anche chiudere la porta, insomma quasi un'ossessione. Professore, e questo sicuramente non fa decidere, no? È un ostacolo. Sì, ritornerei un pochino a quello che stavamo dicendo prima. Attenzione che a volte alcuni comportamenti che sembrano semplicemente una banale indecisione o un aspetto del proprio carattere di insicurezza in realtà nascondono delle vere condizioni, delle vere malattie che necessitano di specifici trattamenti. Quindi sì. la prima cosa da verificare è nel momento in cui l'indecisione diventa qualcosa che occupa troppo tempo tempo nella vita di una persona, crea dei presupposti per essere particolarmente lenti al punto tale da perderci anche delle opportunità della vita, ecco, forse questo è il caso di fare una valutazione specialistica in merito alla natura di questa indecisione, no? Perché è importante a questo punto verificare se esistono i presupposti per una patologia specifica, cosa che pare sia da quelle poche indicazioni che mi sta dando, e a questo punto questa persona può essere sensibilmente aiutata a risolvere il suo problema soltanto in questo modo. Grazie. Professor, Mattia, le stavo dicendo, professor Mattia da Milano. Mattia, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io non vorrei portare fuori tema la trasmissione, però volevo porre questa questione. Quando subentra il sentimento in una decisione e quindi, diciamo, viene chiamato una terza via per decidere, che è il cuore, in questo caso parliamo di pancia, parliamo di raziocinio, di ragione, o appunto c'è una terza via, e questa terza via può essere abbinata alla pancia, penso. Ecco, non so se... Stia lì, Mattia, con questa terza strada, il cuore, le scelte di cuore. Se possibile, prendi le tue decisioni adesso, anche se l'azione è nel futuro. È meglio rivedere una decisione che prenderne una all'ultimo momento. William Given. E noi torniamo con Mattia, che ci ha proposto una terza strada, quella del cuore. Il cuore non sente ragioni tante volte. Professor Perna. Beh, questa è una cosa molto importante, perché credo che tutti noi, nella nostra esperienza, abbiamo avuto questa lotta fra la pancia che ci diceva, per esempio, di lasciare una persona e il cuore che ci diceva di rimanerci assieme. Quindi il problema del sentimento è che il sentimento diventa una forza straordinaria che talvolta addirittura può costringerci a prendere decisioni che sono contro quello che è l'esperienza che viene vissuta dal corpo o dalle decisioni efficaci. Cioè il sentimento diventa un elemento trainante tutti noi, e siccome ci riempie, perché ci riempie la vita, ci riempie il desiderio, ci fa sognare, ci rende anche un po' ciechi. Si dice che l'amore rende cieco, è assolutamente vero. Quante volte, credo tutti gli ascoltatori hanno esperienza, io ho esperienza personale, non so se tu, Nicoletta, ma il fatto che dopo che è finita una storia, oddio, tu ti sei accorto che hai perso 2 anni e sapevi già che era finita, ma non riuscivi a staccarti. Quindi il cuore è importantissimo, ma è anche un grande rischio. Questo perché? Perché il sentimento e l'amore diventano una forza indispensabile a tutti noi, quindi noi decidiamo di rimanere in una situazione brutta che non funziona perché abbiamo comunque un vantaggio, possiamo sognare. E il sogno, direi, che vince qualsiasi forza decisionale negativa. Professor Cavedini, lei è d'accordo? Assolutamente sì, sottoscrivo. Sottoscrive. Sottoscrivo. Ci scrive Daniela, l'indecisione non è causata dall'autostima? E un altro ascoltatore gli scrive, quando decido di testa mi fa male la pancia. Professor Cavedini. Bisogna fare i conti con la propria autostima, ma l'importante è che questa non ci offuschi la visione di tutto quello che ci sta attorno, no? Perché altrimenti non mettiamo sul piatto della bilancia bene le cose, e l'analisi costi-benefici poi tende a diventare un po' di parte. Sì. E quindi questo credo che sia assolutamente importante. La parte razionale e la parte emotiva di noi spesso vanno un po' in conflitto, quindi bisogna imparare a metterle insieme bene. E quindi i dolori che sentono i nostri ascoltatori fanno un po' parte di questo. Rita ci chiama da Roma, benvenuta, buongiorno. Allora, io volevo fare 2 domande. La prima è se le decisioni fatte con la pancia possono, se avvengono in maniera sbagliata, possono poi vincolarsi, a questo punto uno non decide più di pancia, e come rieducarsi a decidere di pancia. Perché magari uno ha deciso di pancia e poi la cosa non è andata bene. E poi rimane bruciata, certo. Esatto, allora uno dopo esclude. E la seconda cosa, se le decisioni prese anche per quelli che si chiamano, fra virgolette, segni, che ne so, uno va perché deve fare una cosa e vede che la persona che l'aiuta si chiama come un nome che conosce bene, o il colore, se questi segni che uno vede sono cose legate alla pancia o legate alla razionalità, insomma. Certo. Professor Perna? Allora, prima cosa importante, la pancia non è infallibile, quindi noi dobbiamo accettare il rischio e gli sbagli. E ricordiamoci che la pancia affina la sua abilità decisionale semplicemente avendo sempre più esperienze, quindi in un certo senso sbagliando sempre di più. Ricordiamoci che è vero che qualche volta la pancia sbaglia, ma se noi facciamo una media di le 100 volte che abbiamo ascoltato la pancia, direi che la stragrande maggioranza delle volte ha avuto ragione. Quindi avere fiducia nella pancia vuol dire avere fiducia nelle nostre esperienze passate. L'altro tipo di risposta che è importante è: dobbiamo insegnare, educare, sì, educare non avendo paura. Non avendo paura vuol dire esattamente affrontando le situazioni, vuol dire prendendo le decisioni, vuol dire rischiando, tra virgolette, di affrontare situazioni nuove ascoltando che cosa? Un vecchio amico, perché la pancia diventa un vecchio amico. Il terzo punto, dimmi qual era, che l'abbiamo abbiamo di questi segni che in qualche modo possono indurci, spingerci nelle scelte, se sono segni che ci fa vedere la nostra pancia, il nostro istinto, invece è qualcosa che invece è l'aggettivo. Noi vediamo quello che vogliamo vedere, cioè non è che tutti noi vediamo la stessa realtà, vediamo una realtà che dipende dalla nostra esperienza, quindi alla fine vedere dei segni vuol dire ascoltare la nostra profonda natura e quindi ascoltare la pancia. Allora, un dubbio per il professor Cavedini: la pancia mi dice di evitare la suocera, l'amore per mio marito mi dice il contrario. Cosa fare? Professor Cavedini, non so se lei ha una suocera, comunque. Assolutamente sì, adorabile anche. Allora è fortunato. Io sono molto fortunato. Seguire il buon senso, credo che sia il suggerimento più pratico. Fondamentalmente, se noi diamo valore al nostro sentimento nei confronti della persona che ci sta accanto, siamo anche disposti a sopportare qualche piccola difficoltà. Sì, facciamo un po' e un po'. Una buona mediazione. Una buona mediazione. Assolutamente sì, cerchiamo il compromesso. Guido è indeciso se scriverci o no, può farlo al 349-238-6666, intanto però si affretti perché ormai sono le 11.52, comunque può chiamarci all'824-0024 come ha fatto Martina, che ci chiama da Siena. Martina, buongiorno. Buongiorno. Allora Martina. Salve, senta, io volevo apportare un mio contributo. Ho sentito finora negli interventi che ci sono stati che comunque c'è una sorta di dicotomia, nel senso o si decide di pancia o si decide di testa. Io mi ritrovo nel mezzo, nel senso che spesso la decisione finale che prendo è quella della pancia. È altrettanto vero che credo sia importante far subentrare la testa, se non si vuole rimanere, a mio parere, prigionieri di quelli che possono essere poi delle difese, dei meccanismi che subentrano, perché comunque credo che la decisione di pancia sia una decisione, è vero, dettata dall'esperienza, però comunque intuitiva, comunque istintiva, e credo che molte persone non siano totalmente consapevoli di quelli che sono i propri limiti, e quindi penso che integrare le due cose aiuti a non fare quello che anche diceva prima anche il professore, cioè l'equazione a ripetere, nel senso riproporre sempre i modelli, le stesse decisioni, magari in modo anche inconsapevole. Grazie Martina. Professor Perna, un commento finale a questa trasmissione, prendendo spunto da Martina, che devo dire ci ha messo sul tavolo tanti spunti di riflessione. Martina ci ha detto una cosa sacrosanta, cioè la decisione non è tra la pancia e la parte razionale, ma è una decisione integrata che deve trovare un'armonia fra quello che è il nostro pensiero e il nostro corpo. Perché puntiamo sulla pancia? Perché di solito la gente pensa che bisogna ragionarci sopra sempre. Ce lo insegnano, esatto. Non usa la testa. No, invece il concetto è che bisogna usare tutte e due le nostre mani, che sono il corpo da una parte e il cervello dall'altra, in realtà sono legate assieme, il corpo e la ragione. Quindi sono d'accordo con lui, direi che la conclusione migliore è esattamente l'intervento di Martina. Allora, restate con noi. Io voglio salutare in linea con noi il professor Fulvio Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, all'Ospedale Sant'Andrea. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non voglio chiederle se è un tipo deciso o no, io ho preso una decisione per i nostri amici da casa. Già che viene ormai il caldo, e per fortuna, ci sentiamo tutti un po' affaticati, stanchi, allora io ho pensato, ho deciso di chiamare lei per farci aiutare con un esercizio shiatsu a riprenderci un po' il tono. Abbiamo meno di un minuto, bene, anzi 30 allora, secondi. Seduti comodi, usiamo il punto energetico per eccellenza, l'apice del cranio. Se noi tocchiamo la nostra testa, il nostro cranio, ognuno di voi riesce a conoscere, a sapere esattamente qual è questo punto. È il punto più alto della testa. Ci mettiamo seduti, respiriamo tranquillamente, mentre inspiriamo, mentre si inspira, con le due mani cerchiamo di premere intensamente questo punto. Premiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5 e poi sull'espirazione rilasciamo. Ancora, via, bene, premendo con intensità sull'apice del cranio, 1, 2, 3, 4, 5 e sull'espirazione rilasciamo. Lo facciamo per 6, 7, 8, 10 volte e vi assicuro che si può riprendere la marcia più in forma di prima. Professor Palombini, grazie per essere stato con noi. Un saluto anche al professor Cavedini, che ci ha aiutato a fare delle scelte efficaci, al professor Perna. Io domani vi aspetto come sempre dopo il GR delle 11. Decidete di esserci. Buona giornata.